Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera a voi tutte, amiche e amici di Blu Radio Veneto, da parte di Gesi, latitante, per modo di dire, nel senso che è in vacanza, e da parte di Antonio. Diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Ricordiamo, per chi lo desidera, che esiste la possibilità di seguire in streaming il programma e di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Questa sera, essendo diciamo da solo, mi sono permesso di fare una rievocazione, sempre nell'ambito di storie de Noaltri, quindi del nostro popolo, delle nostre tradizioni, da Bruno Lorenzon, cantore della saga contadina, mio concittadino tra l'altro, il quale ha scritto alcuni libri, una trilogia in particolare su l'epoca contadina. E il terzo libro che chiude idealmente diciamo questa trilogia aveva come titolo, e ha come titolo, Che a Piazza, Che a Tasa, Che a Staga Casa, Piazza Editore, del quale vi leggo il risvolto di copertina. Con quest'opera, dedicata all'universo femminile, Bruno Lorenzon chiude idealmente una trilogia del filone celebrativo della civiltà e del costume veneto, di cui la generazione attuale sta smarrendo la memoria. Dopo Drio Arestera e A Piede Scalzi, ecco quindi Che a Piazza, Che a Tasa, Che a Staga Casa. Ritratto umoristico, divertente e sarcastico del mondo femminile, così come poteva essere visto dai nostri nonni. Ben consapevole che parlare de femmines è come sustar un nio de vespe, Lorenzon si sottrae alla disputa dialettica e seriosa sull'argomento. Non scivola mai su considerazioni banali, mantenendo sempre quella sottile ironia ed equilibrato umorismo che hanno caratterizzato finora tutte le sue opere e ne hanno determinato un successo editoriale. Diversamente dalle opere precedenti, corredata da foto, questo volume è arricchito dalla mano felice del vignettista Stefano Pavan. Ecco, questo è un libro che naturalmente Bruno ha scritto consapevole appunto di questi rischi, ed essendo, come io sono, un grande estimatore dell'universo femminile, nel mio caso anche perché la maggioranza della famiglia è femminile. Ecco. Allora, niente, qui andiamo ad iniziare questa carrellata che speriamo sia divertente e anche da far riflettere un pochino, noi uomini intendo, con la prima canzone, che è Donne di Zucchero. Don't know.

Il telefono cellulare è un giocherellone, non rivela mai da quale scomparto della borsetta sta squillando. In compenso si fa sentire nei momenti meno opportuni. La novità più temuta è il videotelefono, che non consente di mettersi in comunicazione prima di aver completato le operazioni di toeletta. Indipendentemente dall'uso dei mezzi moderni di comunicazione verbale, la ciacquea si alimenta da se stessa. Essa deve la sua vitalità alla circostanza che la lingua non si consuma. Qualche volta anche gli uomini parla per chi ga a bocca. Tuttavia, a lengua se a spada de femmine, così sostiene un proverbio veneto. Un altro detto, più che altro una constatazione, afferma che edone noi ga il fieto li ga, e quindi hanno la lingua sciolta. Per questo motivo va tenuta affilata ed in esercizio perché non arrugginisca. Ma non c'è pericolo dal momento che edone se etase e fa il goso e noi ga pase. In fin dei conti, quel buco che si apre in mezzo alla faccia serve anche a questo, ma non sarebbe male considerare che il Padre Eterno, quanto ai sensi, ci ha fornito di due occhi per vedere, due orecchie per ascoltare, due buchi del naso per annusare, due mani per toccare, ma una sola bocca. Eppure le notizie non corrono soltanto sul filo del telefono. Quando Gesù resuscitò, si fece vedere prima dalle donne perché la notizia si spargesse più in fretta. In definitiva, le chiacchiere sono anche uno strumento di informazione e benché, come noto, ciacque e fumo non fa grumo, non c'è soddisfazione maggiore a parlare e sparlare delle amiche in maniera rigorosamente confidenziale. Te lo dico in un orecchio, ma mi raccomando, che è il sistema più sicuro perché lo sappia tutto il vicinato. È altresì noto che il segreto delle femmine non lo sa nessun altro che mi e ti e tutto il comune. Questo è uno dei motivi per i quali l'amicizia fra donne adura quanto il trotto di un asino. La sede istituzionale delle chiacchiere è il salone della parrucchiera, dove ogni paziente contribuisce alla creazione di un pettegolezzo. Ma esiste l'equivalente maschile, che è la bottega del barbiere. Per antica tradizione, lì dentro si parla di donne. Una volta ai clienti affezionati il barbiere regalava il calendario tascabile delle cui paginette profumate ammiccavano delle donnine. L'altro tempio del bla bla maschile è il bar sport. Qui milioni di italiani si scoprono tecnici ed esperti delle più svariate discipline sportive e dissertano con insospettata competenza di tattiche e moduli di gioco. Hanno un solo difetto: sono quasi tutti sportivi da salotto e gli unici esercizi ginnici li fanno quando si alzano dal divano. Uno sport nazionale assai praticato, e nemmeno questo è appannaggio esclusivo delle donne, è quello di tagliar tabari, pratica diffusa specialmente negli affari e in politica, allo scopo di screditare i potenziali concorrenti e di farli apparire inaffidabili agli occhi della gente, secondo il cinico consiglio voltariano: calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Ed ecco che, naturalmente, parlando sempre di donne, passiamo a Fiorella Manoia con Quello che le donne non dicono. Parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare tanto ci potrai trovare. Vanno via delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. Eccoci di nuovo in studio per un ulteriore capitolo di questa saga femminile. L'amor non fa boia rapignata. C'è stato un tempo in cui molte professioni potevano essere esercitate soltanto dagli uomini ed erano precluse alle donne. Esse erano ritenute intellettualmente incapaci di occuparsi di commercio e di accedere alle arti liberali, alla politica, alla medicina, alla giurisprudenza, alle scienze matematiche, alla speculazione filosofica e all'insegnamento, udite, udite. E non parliamo dell'esercizio delle armi, benché in questa particolare e poco lusinghiera occupazione si siano cimentati in ogni tempo celebrate eroine. Senza voler tornare a parlare delle solite amazzoni, creature che fanno parte del corredo fantastico di miti anche distanti fra loro e al cui nome è stato intitolato il grande fiume brasiliano, ci affidiamo alle divinità femminili della classicità greco-romana e delle saghe nordiche. Ma per uscire dalla leggenda ci affidiamo alla storia e alla vicenda quasi incredibile di Giovanna d'Arco. Figlia di poveri contadini, era nata a Domremy in Francia nel 1412, si sentì chiamata da Dio a liberare la patria oppressa dagli anglo-borgognoni e a restituire il trono al delfino Carlo VII. Ottenuto il comando dell'esercito, appena diciassettenne, liberò Orléans dall'assedio, ma in seguito cadde in un'imboscata e fu affidata alla giustizia degli inglesi, che la ritenevano una strega e la condannarono al rogo. La sentenza fu eseguita sulla piazza di Rouen all'alba del 30 maggio 1431. Il Papa Benedetto XV nel 1920 la dichiarò santa. La sua straordinaria avventura ha ispirato numerosi scrittori e registi cinematografici. La figura della donna pugnace è entrata anche nella letteratura e perfino nei romanzi. E nelle romanze dell'Ottocento, infarciti solitamente di languide e sospirose fanciulle. Incurante di sentimentalismi, il pantofolaio capitano di lungo corso Emilio Salgari ha dilettato generazioni di ragazzi descrivendo le mirabolanti avventure di queste virago, fra le quali nella memoria della mia fanciullezza spicca Yolanda, la figlia del corsaro nero. Oggigiorno molti eserciti del mondo prevedono il servizio militare femminile, magari nel ruolo di ausiliarie, ma purtroppo anche in quello di truppe combattenti. In Italia si verifica un fenomeno impensabile soltanto pochi anni fa. mentre i maschi si dichiarano sempre più spesso obiettori di coscienza optando per il servizio civile, le donne aspirano in numero crescente a vestire una divisa. E alcune fiction televisive sembrano create apposta per sponsorizzare questa solitamente scarsa propensione femminile. Tra un po' esse saranno ammesse anche su navi e sottomarini, malgrado che la tradizione marinara veda le donne a bordo, al pari dei topi, come un presagio di sciagura. Per quelle che si arruoleranno nella marina scatterà finalmente l'ora della riscossa e i marinai in gonnella potranno vantarsi pure loro di avere un amante in ogni porto, ritorcendo a proprio vantaggio le vanterie dei compagni uomini, che prenderebbero ebee par dieto e brute par dispetto. La condanna di Giovanna, accusata di possedere poteri diabolici, ci rammenta che la donna è una strega capace di arti magiche. In questa veste è stata protagonista di film e commedie, ma durante il Medioevo e fino a tutto il Seicento ha realmente patito sulla sua pelle feroci persecuzioni. A ben guardare, anche la Befana è una strega per quanto convertita alle buone azioni. Dalle nostre parti la chiamavano anche Amarantega, attributo che si prestava a definire con scarsa cortesia ogni donna anziana, brutta e malvestita. Oggi si apostrofa col termine strigosso una persona che si abbiglia in maniera stravagante, che a se consada che a me par una stria. Se in fin dei conti le donne che rivestirono l'armatura non furono moltissime, ciò non significa che esse non siano per natura bellicose. Basta toccarle nei pochi punti deboli, che sono i figli, il letto e l'età, per essere oggetto delle loro ritorsioni. Si preoccupano dell'onore proprio e risarciscono l'orgoglio vulnerato, ripagando le corna con scenate e sanguinose vendette. La pistola sembra congeniale alle donne. Se occorre, sta nella borsetta ed è maneggevole. Calamity Jane ne portava due. Le servivano per difendersi dagli indiani, mentre Bonnie Parker, quella della coppia Bonnie and Clyde, la usò contro gli uomini della legge fino a farsi ammazzare. Una delle ragioni della scarsa considerazione di cui erano fatte oggetto le donne è la condizione di perfetta ignoranza letteraria e scientifica in cui generalmente esse versavano. Per millenni si è ritenuto che soltanto gli uomini avessero diritto alla conoscenza, mentre alle donne era attribuito il compito dell'allevamento dei figli. In un passato, per fortuna ormai remoto, alla donna non era consentito intromettersi nella gestione economica né partecipare alle decisioni importanti. Anzi, la sua opinione non era mai richiesta né considerata. Insomma, il posto della donna nella civiltà arcaica era accanto al focolare e frequentare la scuola non era ritenuto né utile né ragionevole. Le poche donne che a motivo di una condizione economica e sociale non comune acquisivano una cultura erano comunque male accette dalla comunità. Lo testimonia un detto popolare che sintetizza la diffidenza dei maschi: vardete dal can che siga Cain, cioè che si lamenta, e da femmina che sa del latin. Per le stesse ragioni alcune scrittrici di successo nei secoli scorsi preferirono firmare i loro libri con un nome maschile. I mestieri elettivi delle donne riguardavano il cucito, la filatura, la cucina, le pulizie domestiche, il bucato, la cura dell'orto e degli animali da cortile. Gli uffici pubblici o privati offrivano poche occasioni di impiego, riservandole quasi esclusivamente agli uomini. Tutte le donne erano casalinghe, ma dovevano assoggettarsi anche al lavoro nei campi, che era l'attività principale e scarsamente retribuita della maggioranza della popolazione fino alla Seconda Guerra Mondiale. La condizione diffusa di precarietà economica obbligava anche le sposine, che diventavano presto consapevoli che l'amor non fa boia rapignata. Esse smentivano in pratica il detto irriverente secondo il quale qua donna se da maridar scuanca a strada e qua se maridada gnanca a casa. Un'occupazione assai redditizia venne in soccorso delle donne all'epoca dell'allevamento dei baco da seta, ossia nell'Ottocento e fino alla metà del XX secolo, allorché la seta artificiale soppiantò quella naturale, più pregiata ma assai più costosa. I veneziani chiamavano i bachi cavalieri da seda, ma con arguzia indicavano allo stesso modo quei personaggi che mettevano in campo pretese di nobiltà senza averne titolo. La particolare ubicazione territoriale di Venezia favorì anche un'altra occupazione, quella delle lavandaie. Stuoli di donne, per conto proprio e più spesso alle dipendenze di piccole imprese, provvedevano a lavare i panni della città lagunare in terraferma, altrimenti l'acqua salsa avrebbe rovinato i tessuti fini e i merletti ricamati. La pratica alimentava un intenso traffico fluviale da e per la laguna, lungo il Sile, per esempio, gestito dai tramissieri, cioè i traghettatori. Con notevole incongruenza, il termine veneto lavandera assunse in seguito il significato dispregiativo di donna volgare e sboccata, desunto dall'abitudine alle ciacque scambiate intorno all'ampor, cioè il lavatoio. Di una donna che raccontava volentieri e sproposito i fatti altrui si diceva a gana bocca come la lavandera. Ma a coloro che si lamentavano di questo malvezzo, di mettere in piazza le faccende altrue, quella rispondeva che i fin dei conti a bocca che si astroppa solo che ai sacchi. Dentro la casa le femmine fin da piccole dovevano applicarsi alla formazione del proprio corredo che avrebbe costituito a tempo opportuno la dote matrimoniale. L'arte di ricamare, cucire e rammendare era molto apprezzata. Il numero generalmente alto dei familiari, specialmente dei ragazzi che crescevano, e le scarse disponibilità finanziarie suggerivano ingegnosi accorgimenti per adattare i vestiti alle varie situazioni. Le donne più anziane non mancavano di ricordare alle giovani che ago e pessetta mantiene a siora e anche a poareta. Oggi l'arte della sartoria domestica è scomparsa. I capi sdrucciti non si rattoppano, i cassonetti della Caritas traboccano di indumenti seminuovi perché si ritiene sconveniente mostrarsi in pubblico con un vestito già indossato altre volte. Non che questo precetto non fosse conosciuto già ai tempi delle nonne, le quali si rendevano conto che a vestir ben se marida a tosa, ma non esitavano a sentenziare che, con grande realismo, che quando l'abito da festa si omette tutti i dì, o che se semati o che ne se capì. Si devono anche considerare che la spesa per l'abbigliamento rispetto al passato remoto risulta oggi proporzionalmente molto più contenuta, grazie soprattutto all'uso dei tessuti sintetici e della produzione in serie. Queste opportunità erano sconosciute alle caterinette, una categoria di lavoratrici ben definita, costituita da donne, per la maggior parte nubili, che si mantenevano col lavoro di sarta e di crestaia. La parola Caterinetta le identificava come le devote di Santa Caterina d'Alessandria, loro patrona, detta della ruota, a motivo dello strumento del suo martirio. E qui chiudiamo per l'ultima canzone e andiamo ai Fabulous Four, i baronetti Beatles, con Woman di John Lennon. Eccoci di nuovo in studio con l'ultima tranche di questa saga, di questo racconto volutamente, diciamo, arguto, così esilarante in certi casi. E naturalmente non ce ne voglia l'universo femminile che ci ascolta, del quale abbiamo la massima stima, naturalmente. Pansa, tosse e amor, se tre robe che non si può scondere. Ma infine, cos'è questo amore? Cosa c'è di più coinvolgente, cosa di più irresistibile? Conoscerne il senso è un'impresa, perché il vocabolario lo definisce ma non lo spiega. È un virus, un contagio, o forse semplicemente un'idea. Gli antenati assicuravano che l'amorse come i busi in dei calzetti, che pi che se che pensa e pi grandi i par. Il simbolo più usato per rappresentare questo sentimento è il cuore, sede dell'amore carnale come di quello mistico. L'unica cosa certa è che pansa, tosse e amor, se tre robe che non si può scondar, come ricorda un proverbio veneto. Mentre in Emilia si usa accostare l'amore ad un sacco di noci che non possono essere tenute nascoste perché fanno rumore. L'amore è relativo in quanto non è eterno, malgrado i giuramenti degli innamorati, e alla fine produce infedeltà. Shakespeare, che come era noto era un esperto di amori e tradimenti, riprendendo in Romeo e Giulietta una massima latina desunta dall'Ars Amatoria di Ovidio, ci mette in guardia contro la volubilità del cuore. Di corna sulla testa dei mariti o dei fidanzati traditi, e viceversa, ne spuntavano un tempo non meno di adesso, e tutti erano d'accordo nel dichiarare che «se meglio ver corni in scarsea che in testa». Anche i figli illegittimi ne nascevano tanti, specialmente presso le famiglie meno abbienti. Le ragazze che andavano a servizio presso le dimore signorili non di rado facevano ritorno al paesello gravide o sgravate di un marmocchio, magari con un gruzzoletto extra a titolo di bonaman, che è come dire il ben servito. Ma le aristocratiche, con minori giustificazioni, provavano luzzolo di cambiare ogni tanto il menù. Immaginiamoci la noia mortale dalla quale doveva essere assalita la dama feudale all'epoca delle crociate. Al suo ritorno, il signore si dava da fare per recuperare il tempo perduto. Le sue performance erano riservate doverosamente alla moglie, ma pare che non disdegnasse di rivolgere le sue attenzioni altrove. Secondo una norma del diritto feudale mai confermata, egli poteva valersi nei confronti delle giovani promesse spose del contado, del cosiddetto ius prime noctis. Il rovescio del tradimento è la fedeltà, quella che si attribuisce anche ai cani, ritenendo, a torto, che la devozione sia un dovere naturale. Lo è per chi, come appunto i cani, si riconosce soggetto ad un padrone, non per gli esseri umani, per i quali la fedeltà ad un partner, ad un ideale, ad una bandiera, è subordinata alla reciprocità ed è sovente insidiata dalle delusioni o dall'assuefazione. A questo proposito si racconta che il gesuita francese Pierre Coton, confessore di Enrico IV, re di Francia, rimproverasse continuamente il sovrano a causa delle sue infedeltà coniugali. Allora il re, che lo ospitava a corte e lo annoverava fra i suoi commensali, gli fece servire per molti giorni di seguito soltanto pernici a pranzo e a cena, finché quello non ne poté più, per quanto squisite fossero, e alla fine sbottò: «Uffa, sempre pernici!» Al che il re, a sua volta, facendogli il verso, sbuffò: «Uffa, sempre regina!» Corollario dell'infedeltà è la gelosia, che in genere è ritenuta una qualità negativa, in parte giustificata al dubbio. Una volta si diceva: «Chi se geloso, se beco». Anche intorno a questo sentimento si possono leggere e scrivere opinioni differenti. Esso colpisce tutti gli esseri umani ed è inscindibile dall'amore. «Chi non è geloso non ama», dice il proverbio. Lo stesso concetto è ripreso da una vecchia canzonetta che fu assai popolare, che affermava: «Amore vuol dir gelosia». Con scarsa obiettività si ritiene che le donne siano più propense degli uomini al tradimento, e questa opinione si affianca a quell'altra che esse siano costituzionalmente bugiarde. I maschi, forti delle proprie debolezze, si fidano poco in genere delle rassicurazioni delle compagne, specialmente se desiderabili, e temono costantemente di essere ripagati con la stessa moneta. Nell'impossibilità di controllarne la condotta quotidiana, i mariti, consapevoli che coe bee crese i corni e convinti che coe femmine se confessa e dice sempre quello che noi ha fatto, concordano a volte con l'antico adagio cinese che recita: «Quando torni a casa la sera, chiama tua moglie e picchiala, tu non sai perché. Lei senz'altro sì. Gli esempi di tradimento, anche letterari, sono innumerevoli, a far capo alle disavventure di quel cornuto di Menelao di cui abbiamo già parlato e che, per recuperare l'onore e riportare a casa la fedifraga Elena, attraversò l'Egeo e buttò 10 anni dei suoi migliori combattendo sotto le mura di Troia, fatto raccontato da Omero e anche, magari con minor pathos, dai seguenti versi goliardici. Per iniziar la guerra e cogliere l'occasione non è che serva molto, né torto né ragione. Basta un'inezia, un'acca a intossicare i cuor. Godè la bella Elena di Menelao la corte, piacevole e raccolta un'invidiata sorte, ma un dì cessò la pacchia per via di un pomodoro. Per esser sinceri, il greco era assai brutto, nel mentre chi portava lo sconosciuto frutto era un aitante fusto con glutei da campion. Pasta del capitano, mai tinse i denti suoi, negli occhi blu guizzavano lampi d'amor, e poi con lui ci fu più gusto a fare i ribalton. Sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lei caricò con Florida la dote sul carretto, e su un ronzino tremulo lo sposo abbandonò. Ci fu compianto, e umano, con quanche teritera, verso la nuora perfida la mamma fu severa, e Menelao dal cumulo lo schioppo prelevò. Pur Venere e Minerva irate contro quella, che il pomodoro dicevasi andava alla più bella, il re cornuto spinsero per mare a veleggiar. Con altri becchi greci, per imbastir la storia, si consumò l'impavido per conquistar la gloria. Dopo un decennio fece Troia capitolar. Invano il vecchio amante lottò per quella causa. Quando rinvenne Elena già era in menopausa, coi seni vizi e flaccidi, il re si disgustò. 2 lustri di battaglie, 10 anni di livore. Veder quella balena gli dette un tuffo al cuore e a paride magnanimo la donna rimandò. Amare è un conto, prender moglie o marito è un'altra cosa. Anche perché la vita matrimoniale di solito dura più a lungo di un flirt e ha conseguenze più serie. Socrate, interrogato se bisognasse sposarsi o no, rispose: in entrambi i casi ti pentirai. Il grande filosofo greco parlava con cognizione di causa. Egli si era presa per moglie una certa Santippe, che doveva essere una brava donna, malgrado gli amici di suo marito la giudicassero un'inguaribile brontolona. La loro unione non ebbe successo perché, per un buon matrimonio, gavò l'uomo sordo e a femmina orba. Il nome di Santippe è passato a designare per antonomasia il prototipo della moglie insopportabile, ma la realtà è che Socrate, come del resto i suoi amici per digiorno, si curava poco dei doveri familiari e poco amava lavorare, al punto che anche scrivere gli costava fatica. Noi conosciamo la dottrina filosofica di Socrate soltanto perché ci è stata tramandata dai suoi discepoli. Nascevano da qui le rimostranze della signora, la quale pianse un poco quanto il marito fu costretto a bere la cicuta, ma tirò nel contempo, è probabile, un sospiro di sollievo. Almeno nei tempi andati i mariti erano convinti che ammogliarsi attò la vita e non in prova. E una volta che la si era scelta davanti all'altare era gioco forza tenersela, per quanto succedesse anche allora che il primo anno se voria magnarla e il secondo se pentisse di non averla magnata. La Torah, leggi mosaiche, autorizzava l'uomo a rimandare la moglie in caso di insoddisfazione e lo stesso prevede il Corano, mentre alle nostre latitudini già è difficoltoso farsi cambiare una merce difettosa e vale tuttora l'avvertimento: a muiarse un lotto, se ase buona te va dritto, se ase cattiva te va sotto. Oltretutto, una volta l'azzardo era maggiore, dal momento che la convivenza prima delle nozze era impensabile, e tanto lui che lei potevano accertarsi della reciproca compatibilità soltanto dopo essere usciti dalla porta della chiesa. Il fidanzamento era una prova di stoicismo non sempre felicemente conclusa, e infatti capitava che si dovesse ricorrere alle nozze riparatrici. In questo caso il parroco imponeva un'ora impossibile alle prime luci dell'alba e la sposa non poteva indossare l'abito bianco. Lo scandalo era grande e alimentava i pettegolezzi delle comari, che non tralasciavano di mormorare, scuotendo la testa, i gasserà a porta della staia dopo che a vacca si scampà. Ma non c'è ragione in grado di opporsi al fascino femminile, e da che mondo è mondo, l'uomo si mostra vulnerabile agli strali di Cupido. Con una battuta, Buddy Sorrell, comico televisivo americano, ammette: l'amore fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato. Ancora al giorno d'oggi il matrimonio tiene, e oltre a conferire valore giuridico a un'unione sentimentale, vale di fronte all'opinione pubblica, che poi molte dive lo vivono come un intermezzo fra un divorzio e l'altro, è un altro paio di maniche. In definitiva, le donne detengono ancora il potere di convincere i compagni a prenderli in moglie, e il matrimonio resta un'istituzione rispettata, benché il fatto di portarsi a casa una sposa non garantisca automaticamente di aver fatto un buon affare. Salomone, nella sua sapienza, si rendeva conto che le sostanze si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è un dono del Signore. Qualcuno sostiene che in questo senso il buon Dio non si mostra di manica larga. E qui concludiamo. Naturalmente ci sarebbero molte altre cose da dire, molti altri motti, eccetera, che però nascondono sempre quella grande, come dire, stima, quella grande ammirazione che Bruno, prematuramente scomparso poco più di 10 anni fa, nutriva per l'universo femminile, che naturalmente come dire, noi uomini trattiamo a volte con sufficienza, eccetera, che invece merita non solo la nostra stima, il nostro amore, ma tutto quanto il rispetto, che diciamo anche quello che non è stato dato loro in tempi passati, ai tempi dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, più per ignoranza che per cattiveria, vorremmo dire. E su questa considerazione, che spero piacerà anche a Gesi quando l'ascolterà, noi vi ringraziamo sentitamente per la pazienza con la quale continuate ad ascoltarci, e vi diamo appuntamento alla prossima volta, a Dio piacendo. Grazie e buona serata. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.